cresce e si sviluppa, e perché si sviluppi sono necessarie due cose: che la madre gli trasmetta le sostanze nutritive che servono per lo sviluppo, ma che gli trasmetta anche una serie di informazioni. In parte queste informazioni sono codificate dai geni, in parte sono legate all'ambiente, e in questo senso intendo l'ambiente inteso come utero, cioè l'ambiente in cui il bambino si trova a vivere. Nell'utero ci sono le trasmissioni di impulsi da parte della madre, impulsi che avvengono attraverso le produzioni di ormoni, ad esempio gli ormoni tiroidei, che servono per un adeguato sviluppo, per esempio, del cervello del bambino. È chiaro come se queste informazioni vengono trasmesse male, avremo sicuramente più rischio che ci possano essere delle alterazioni nello sviluppo, nella programmazione proprio dello sviluppo, ad esempio, del cervello. Certo, viene da chiedersi se tutti sono consapevoli di questo, diciamo genitori e futuri genitori. Non credo che lo siano né i genitori e forse tante volte nemmeno le istituzioni che dovrebbero essere preposte alla nostra attenzione. Pensiamo ad esempio al caso dei pesticidi, non ci sono le informazioni sul rischio che possono avere questi pesticidi durante la gravidanza, per esempio. Ecco, e lei ha parlato di pesticidi che spesso vengono associati ad un aumento delle malattie neoplastiche, ma di cui forse non è noto appunto questo ulteriore aspetto. Ce ne può parlare un po' più diffusamente? Allora, guardi, i pesticidi sono delle sostanze che noi sappiamo tutti sono stati prodotti per migliorare i raccolti, quindi in linea di massima sono delle sostanze concettualmente positive per il loro scopo, però molti di essi sono sia cancerogeni, come giustamente ha detto lei, sia hanno questa caratteristica di essere degli interferenti endocrini. Questa parola strana vuol dire sono delle sostanze che possono interagire con i nostri ormoni. Possono alterare l'attività dei nostri ormoni, e lei sa benissimo che gli ormoni sono quelli che regolano tutto il nostro organismo, regolano il nostro sviluppo, regolano la nostra capacità di metabolizzare le sostanze, e appunto, tornando al discorso della gravidanza, nella gravidanza gli ormoni sono quelli che, trasmessi dalla madre al feto, possono permettere uno sviluppo normale del cervello del feto. Di conseguenza capiamo tutti com'è il pericolo dei pesticidi, soprattutto in queste fasi, sia molto molto alto. E non parlo solo dei pesticidi che vengono utilizzati in agricoltura, pensiamo anche a quelli che vengono utilizzati sulle strade, a quelli che vengono utilizzati nelle nostre case anche per uccidere la zanzarina o la formichina che entra in casa. Ecco, quindi un'indicazione fondamentale è questa: soprattutto durante la gravidanza e nei primi 1-2 anni di vita del bambino, evitiamo qualsiasi contatto con queste sostanze. Perfetto, noi ringraziamo il dottor Toffol per il momento, e prima di passare al brano musicale ricordiamo il nostro indirizzo info@bluradioveneto.it per naturalmente qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni che vediamo già sono che stanno arrivando, e naturalmente ricordiamo anche il podcast che è disponibile evidentemente sulla nostra radio. La canzone che andiamo è Bambini di Paola Tucci. Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra di collera. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libera. Milioni sono i bambini stanchi e soli in una notte di macchine. Milioni tirano bombe a mano ai loro cuori, ma senza più. Ragazzini corrono sui muri neri di dove tradirono tuo padre il suo passato assassinato, desaparecido. Nuovo Antonio Ceccato in studio per questa trasmissione sul diritto al bambino di non essere inquinato con il dottor Giacomo Toffol, al quale rivolgiamo un'altra domanda che diciamo è abbastanza provocatoria. Dall'inizio della trasmissione abbiamo parlato anche dei polmoni dei bambini. Che cosa può comportare per loro l'inquinamento atmosferico? Perché da lì si gioca gran parte della salute, mi pare. Certo, già prima avevo accennato al fatto che i polmoni dei bambini si sviluppano quasi per completamente nei primi 5-6 anni di vita, quindi che questa è la fase di maggior rischio. Noi dovremmo teoricamente respirare aria pulita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha imposto delle indicazioni, ha consigliato delle indicazioni sul livello di inquinanti. La realtà è che circa il 90% della popolazione che risiede in aree urbane, ma non intendo solo in città, anche nei piccoli paesi, e quindi anche i bambini, è esposto a livelli di inquinamento atmosferico che sono superiori alle indicazioni raccomandate dall'Organizzazione Mondiale di Sanità. Gli effetti più evidenti di questo sul bambino sono sotto gli occhi di tutti quando comincia la stagione invernale. Le tossi, le asme, i problemi di broncospasmo dei bambini sono sempre più importanti, sono sempre più frequenti. Le vie superiori indipendentemente dai virus, ovviamente, certo. Perché gli inquinanti irritano queste sostanze. Pensi addirittura che ci sono degli studi che hanno dimostrato come se i bambini che vivono in aree particolarmente inquinate hanno dei polmoni che si sviluppano meno. Quindi anche pur non essendo ammalati, se noi facciamo degli esami su questi bambini, la spirometria, quell'esame con cui si misurano i flussi dei polmoni, il volume dei polmoni, certo. Si riesce a vedere come bambini che vivono in aree inquinate abbiano dei polmoni che si sviluppano meno, quindi polmoni con meno potenzialità rispetto ai bambini che vivono in aree sane, con tutte le conseguenze, ovviamente, che questo, certo, può avere sia nella vita infantile sia poi mano a mano che il bambino cresce e diventa adulto e diventa poi anziano. Certamente. Poi il traffico è causa anche di un altro tipo di inquinamento di cui si parla poco, anche se ultimamente mi pare che ci siano maggiori tendenze a trattarne. L'inquinamento acustico, che cosa ci dice di questo? Noi parliamo poco dell'inquinamento acustico. In realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo considera come la seconda più importante il secondo più importante tipo di inquinamento dopo l'inquinamento atmosferico. È dimostrato che un eccesso di rumorosità come quello a cui noi ormai purtroppo siamo abituati, perché non ce ne rendiamo neanche più conto, esatto, può creare dei danni molto importanti. Addirittura in età adulta, in età avanzata, ci sono delle correlazioni tra l'inquinamento e patologie cardiovascolari, l'infarto, l'ipertensione arteriosa. Nei bambini in modo particolare sono due gli eventi che possono essere causati dall'aumento, dall'eccesso di rumorosità. Da una parte sicuramente le lesioni reversibili o irreversibili all'udito, cioè bambini che diventano, non dico sordi, ma che hanno una potenzialità uditiva minore perché sono esposti ad un eccesso di rumore. E Questo è dovuto essenzialmente a due fattori: da una parte il rumore del traffico, prevalentemente il rumore, diciamo così, di fondo di tutti i nostri paesi, di tutte le nostre città; dall'altra un'abitudine che ormai hanno tutti i bambini, ma soprattutto gli adolescenti, ai quali nessuno pensa, e che è l'uso dell'ascolto della musica in cuffia. Quando eravamo giovani noi si sentiva male, no? Perché gli attrezzi che venivano usati per riprodurre la musica erano di basso livello. Adesso gli MP3, gli smartphone che usano i bambini, i ragazzi, hanno un livello di riproduzione dei suoni talmente perfetto che i ragazzi, gli adolescenti, ascoltano musica a un livello di decibel enorme, quasi come stare in una discoteca, quasi come lavorare con un martello pneumatico. Questo è il dramma, anche perché mi pare che poi dopo un po' di anni potrebbero anche diventare sordastri in questo mondo. Esatto, ci sono degli studi sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della parte diciamo europea dell'OMS, che stimano come circa il 5-10% degli adolescenti, proprio solamente a causa dell'ascolto di musica ad alto volume per ore prolungate, possa avere dei problemi di udito dopo 4-5 anni dall'inizio dell'ascolto. La domanda mia è questa: qui è un inquinamento che, a differenza di quello diciamo da traffico, è elettivo, nel senso che uno è causa è del suo male o sbaglio? È sicuramente volontario, però sappiamo che gli adolescenti hanno delle abitudini di vita che sono molto difficili. Il problema è che nessuno se ne rende conto di questo. Neanche gli stessi adolescenti non si rendono conto della pericolosità di questo, anche quando glielo si racconta. Un bel dramma. E questo è come capacità cognitive, come problematiche? Il secondo punto su cui l'inquinamento nei bambini incide, l'inquinamento acustico incide, è una riduzione delle capacità cognitive. Cioè, non legata all'ipoacusia, alla sordità, bambini che vivono, studiano, lavorano in un ambiente con alto livello di inquinamento acustico, quindi con un alto livello di rumore, come capita spesso nelle nostre aule scolastiche, hanno una ridotta capacità di apprendere, hanno una ridotta capacità di memoria, di concentrazione e di attenzione. Un disastro. E che cosa possiamo fare per proteggere i bambini? Perché la domanda disarmante è questa alla fine. Certo, no, io non vorrei spegneste la radio dopo questa chiacchierata dicendo non abbiamo nulla da fare. Sicuramente ci sono delle cose che tutti noi delle possiamo azioni fare, che possiamo intraprendere. Delle azioni che possiamo intraprenderne ce ne sono sicuramente. Allora, per esempio, abbiamo parlato prima dell'importanza della gravidanza, quindi adesso mi rivolgo alle future mamme. Ricordiamo che il periodo della gravidanza è uno dei periodi più importanti nello sviluppo della vita del bambino. È il periodo in cui ci possono essere dei rischi, ma ci possono essere anche dei comportamenti virtuosi che permettono di ridurre questi rischi. Ad esempio, come dicevo prima, evitare l'uso dei pesticidi. Ad esempio, evitare, come i pesticidi, anche l'alcol. Sappiamo che è un problema durante la gravidanza il fumo di sigaretta. Dopo la nascita, quello che tutti noi possiamo fare, a parte l'allattamento materno, che è, come sappiamo tutti, uno dei cardini di una sana vita, è ad esempio quello di non restare tutti chiusi dentro in casa. Ricordiamo che tutto quello di cui abbiamo parlato non c'è solo nelle strade, ma c'è anche all'interno delle nostre case, per cui usciamo, cerchiamo di trovare i posti meno inquinati possibili, però usciamo e portiamo fuori i bambini, portiamoli fuori a camminare, portiamoli fuori a giocare e a vivere all'esterno. Possiamo chiedere poi alle amministrazioni comunali, secondo me, qualcosa. L'esempio dei pedibus, i progetti con cui i bambini vanno a scuola a piedi. Un'altra cosa che possiamo chiedere è estendere le zone a 30 km orari. È dimostrato che questo riduce gli incidenti, riduce l'inquinamento atmosferico e riduce l'inquinamento acustico. Quindi delle cose da fare, secondo me, ci sono. Quelle sono delle azioni che sia individuali che collettive possono dare chiaramente qualche speranza in più. Certo. Ecco, noi ringraziamo il dottor Toffol per la sua, molto inclusiva, diciamo, dissertazione, perché sono argomenti che richiederebbero molto più tempo, ma vogliamo dare dei flash ai nostri ascoltatori in modo che da parte loro ci sia qualche iniziativa per poter fare delle azioni di tutela per i propri bambini. Grazie al dottor Toffol, e diamo di nuovo appuntamento su Blu Radio Veneto per il podcast info@bluradioveneto.it per domande che possono essere fatte. Grazie e alla prossima volta. Grazie, arrivederci. Ambiente e salute in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.